Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 26. Lezione 20. Come avrai notato, inizierò sempre con un breve discorso. Questa volta mi piace darti una risposta su una domanda che qualcuno mi ha chiesto. Chi era il tuo insegnante? La mia risposta è: io non ho un insegnante. Mai avuto uno. L'unico insegnante per me è Ari, che viveva nel XVI secolo. In me non c'è desiderio di impegnarmi con un gruppo. Quando leggo Ari, sento qualcosa. Io sento Ari che sta venendo dentro di me. Ma ciascuno di voi è libero di fare quel che lui o lei vuole. La cosa più importante è la Kabbalah ti aiuta. Per riuscire in questo, devi sapere che è molto importante lasciare il tuo intelletto dietro. Questo è l'elemento più importante del tuo studio. In un certo modo è tutto riguardo al arrendersi. La cosa è: ancora e ancora devi cercare di lasciare il tuo intelletto per quello che è, perché non c'è intelletto in Kabbalah. L'unica cosa che devi fare è rendere te stesso ricettivo e aperto per la comprensione. Quando leggi con l'intenzione di imparare, sappi che stai sbagliando. In un certo modo non riguarda la tua progressione. La Kabbalah è un aggiornamento spirituale dell'uomo. E questo è ciò che tu ed io stiamo facendo. Non pensare che tu sei l'unico che può salvare gli altri. Salva te stesso. La mia intenzione è di aiutarti nello stesso modo come Ari fece. Renditi piccolo, minuscolo, dentro di te. C'è qualcosa che conosci? Il vero spirituale è così sottile. Fai l'occhiolino ed è sparito. Quindi non sentirti orgoglioso o buono o qualsiasi cosa, ma fai te stesso piccolo, minuscolo, dall'interno, e allora tu puoi ricevere il superiore. Mentre stai leggendo o ascoltando, sai che non hai bisogno di qualcosa da memorizzare, da ripetere ancora e ancora. Prendi proprio come quando eri a scuola. Io voglio andare sempre più in profondità. Il mio desiderio è per lui stesso, il Creatore. C'erano un po' di persone che sapevano ogni cosa riguardo la Kabbalah. Ari e naturalmente l'autore dello Zohar. Ma sono la stessa anima. Ovviamente un'altra persona in un altro tempo, ma la stessa anima. Queste due persone con la stessa anima hanno raggiunto questo livello elevato all'opposto di altri che non arrivarono a questo livello. Continuo senza un sistema perché giorno e notte sono in contatto con Ari. Qualunque cosa sia, io ne parlo, ma esso non viene da me, viene da sopra, dal superiore. Non mi affido solo a cosa posso afferrare dal vero spirituale che io ti do. Questo è il lavoro che faccio. Afferrare e provare a connettermi con il superiore. Io sperimento Ari come una persona vivente. Per me lui è ancora vivo. Con te voglio andare più in alto possibile. Mi tengo occupato con quello che è meglio per me. Da nessuna parte in questo mondo c'è qualcuno che insegni a un gruppo come faccio io. Con te voglio realizzare il massimo. Questo è il mio desiderio. Più leggi, più alto e più profondo verrai. Non ripetere, ma vai sempre più in alto e in profondità, perché ogni giorno è un nuovo giorno speciale. Lasciatemi continuare con il manuale per la purificazione interiore. Il terzo articolo riguarda la comprensione spirituale. Qualunque sia la nostra comprensione, con i nostri, tra le virgolette, intendo noi, i ricevitori. In un certo modo c'è il desiderio di una reazione da parte nostra, una reazione molto adeguata. Ogni cosa è perfetta e anche noi siamo perfetti. Tutti noi siamo in una perfetta totalità. A noi non ci manca nulla, solo la nostra reazione è inadeguata. E questo è perché vogliamo ricevere in modo egoistico, dove la qualità del superiore, dell'eternità, è dare. A causa di questo c'è discrepanza tra la luce e noi. Tu devi sapere questo perché ora puoi costruire la forza per cancellare le differenze e provare a venire in conformità con la sua qualità. Questo è il lavoro che tu e io dobbiamo fare. E all'interno di questo lavoro ci sono tutti i tipi di gradi, madrigot, nel plurale. Tutti i tipi di differenziazioni per portarci in conformità con i suoi nomi. Ogni nome è un grado del superiore. Prima dobbiamo sapere che cos'è. Poi tu puoi portarti in conformità. Continuiamo la lettura del testo. In considerazione delle comprensioni viste dal punto di vista delle anime, quello che loro ricevono nei mondi. Dovuto a questo, l'intera realtà è divisa in tre fasi. Visto dal nostro punto di vista, vediamo solo tre fasi. La sua essenza è in Sof. E le anime. L'essenza della luce è lì per manifestare lui stesso, ma è irraggiungibile per noi, quindi non possiamo parlarne. Le altre due sono Ein Sof e le anime. Neshama o Neshamot, singolare o plurale. Tre fasi insieme. Noi iniziamo sempre con queste tre fasi. E la prossima fase è fare di differenziazioni tra il superiore e l'inferiore. Testo. Non possiamo parlare riguardo la sua essenza, perché la radice è il luogo delle creature, iniziano nella creazione, ed è detto. La fine del suo atto risiede all'interno del suo desiderio. Cosa significa questo? Che già la fine era lì dall'inizio. La radice di ogni cosa è nell'inizio. E come ho detto prima, non possiamo parlare riguardo alla sua essenza. È vietato parlare riguardo a cosa era prima della creazione. È proibito perché non ci è stato dato. Non è oggetto del nostro studio, non è soggetto a comprensione. Quando ne parli, sai che è solo speculazione, niente di più. Non c'è comprensione di alcun tipo, quindi non possiamo parlarne. Per favore, metti questo nel profondo del tuo cuore. Comprensione ha il significato di esperienza. Questa è la vera comprensione. Sperimentare è diverso e smettere da ciò che siamo abituati a fare, cioè imparare a memoria. Questo non è quello che voglio. Voglio che tu impari nel modo di sperimentare senza intelletto. Questo è il modo in cui Aria ha insegnato. E ha dato questa esperienza solo a pochi dei suoi pupilli, perché molti di loro non potevano fare questo. No, non ti do una risposta diretta perché voglio che tu cerchi la risposta. Devi fare un grande sforzo per trovare la tua risposta. In un certo modo la ricerca per la risposta è più importante della risposta. Quando tu hai una risposta allo stesso tempo, c'è una limitazione. E noi ci sforziamo per le cose che non hanno limitazioni nel nostro mondo. E non puoi trovare uno studio dove impari questo. Nel nostro mondo materiale tutto è intorno all'intendimento. Ma nel vero spirituale è abbastanza diverso. Sai che cos'è un oasi? Vedi un'immagine? Un'ombra. E quando ti avvicini, l'ombra si muove. Quel che stiamo facendo sembra questo. Ma la differenza è, tu vieni in fondo nell'oasi, ma l'ombra è sparita. Proprio come in un deserto. Hai sete e poi vedi l'acqua, ma quando sei vicino all'acqua, l'acqua non c'è. In un certo modo il lavoro che facciamo è come lottare per l'acqua. Nel deserto. Ma c'è una grande differenza. Siamo vicini al obiettivo, anche se sembra irraggiungibile. Sappi che raggiungerai il tuo obiettivo. È lo stesso con le domande che tu hai. Quando hai una domanda e la risposta non c'è, non bramare per colui che ti dà una risposta immediata, ma lavora. Sforzati, così tu puoi raggiungere la risposta da te stesso. Quando tu sei pronto, riceverai la tua risposta. È molto importante avere domande. È bene che tu non sappia tutto. È buono che tu non hai la risposta, ma per favore abbi il desiderio per la risposta. Il desiderio di sapere perché questa bramosia è il cli. Ora sei come un barile in cui puoi inserire una risposta. Nel linguaggio della Kabbalah diciamo ein or bli cli. Non c'è luce senza barile. Quando hai un barile, un cli, puoi ricevere luce, or. Hai le domande anche quando non hai una risposta, non importa perché, in un certo senso, ogni domanda è mancanza e tutta la mancanza che hai sta facendo buchi. E in questi buchi può venire il ripiempo. Il ripiempimento. La luce eterna. Noi non parliamo circa la sua essenza. Non parlo delle sue radici, perché è impossibile sapere qualcosa riguardo la sua essenza. È impossibile parlare circa le sue qualità. Non è dato all'uomo sapere questo, e quindi non puoi chiederlo. Appartiene al periodo precedente della creazione. Si può avere domande considerando prima le creazioni? No. Non è il nostro potere, non appartiene alla nostra dimensione fare domande riguardo a questo. Supponiamo che qualcuno faccia domande riguardo a questo. Primo è filosofia. E in secondo luogo arriverai alla più grande delusione. Il tuo intelletto ama la filosofia, ma non ti dà alcun sviluppo. Non può salvarti. Testo. L'infinito è l'immagine della creazione che precede la creazione. Il suo desiderio è di dare piacere a tutte le creature sul livello dell'infinito. E questo si chiama Ein Sof Baruch Hu, Ein Sof, il benedetto. Questo è Ein Sof. È l'inizio da cui è stata creata la creazione. Questo inizio è anche un punto e non possiamo sapere nulla a riguardo. Ma c'è una differenza. Ora abbiamo le sue radiazioni, sebbene in un modo indiretto. Le sue radiazioni stanno arrivando a noi, ma ancora non possiamo parlarne, ma possiamo sentirle e farne uso quando veniamo al mondo di Azilut. Solo quando veniamo al mondo Azilut, Bria, Yetzirah e Assia, possiamo sentire qualcosa, ma sapere di esso è impossibile. Io ne parlo e tu le leggi e basta. Lentamente sentirai, ma per ora hai bisogno di pazienza e intenzione. Ein Sof è l'infinito. Ein Sof è il creatore. Non come è scritto qui la creazione. Ein Sof è il creatore. La luce. Testo. Questa è la connessione tra la sua essenza e le anime. Neshamot. Noi comprendiamo questa connessione come il suo desiderio di dare piacere alle creature. L'infinito è l'inizio di questo processo ed è chiamato luce or senza cli. Noi parliamo di luce all'interno di un cli. Quando non c'è luce in un cli, stiamo parlando di uccelli nel cielo e non in una gabbia. È impossibile parlare riguardo la luce finché non c'è luce dentro noi stessi. O in altre parole, finché non limitiamo la luce dentro noi stessi. Testo. E in questo vediamo la radice di tutte le creature. Luce fa il Kli. La luce produce tutte le creature, quindi ci deve essere una radice. Possiamo imparare dalla radice, ma cosa c'è dentro la radice? Testo. La radice è l'alleanza con il creatore e le creature. È suo desiderio dare piacere a tutte le creature. Questo desiderio inizia nel mondo dell'infinito e viene al mondo di Asya. Asya è l'ultimo mondo. Cos'è un mondo? Il mondo è il grossolano della luce. Il mondo spirituale più basso e ultimo è Asya. È il nostro mondo materiale inizia. Testo. Le anime sono i ricevitori del piacere incorporato nel suo desiderio di dare piacere. Noi usiamo il concetto di infinito perché è tutto circa l'alleanza tra la sua essenza e le anime. Naturalmente c'è un'alleanza tra la sua essenza e le anime. La sua essenza non la possiamo comprendere perché nel mezzo c'è l'infinito che collega la sua essenza con l'anima. Questa è l'unica alleanza che c'è. Testo. La sola comprensione che abbiamo è il suo desiderio di dare piacere al creatore. Solo questa alleanza è il soggetto della Kabbalah. Riguardo altre cose, noi non parliamo. Noi non ne parliamo perché non possiamo. Solo l'alleanza tra la luce e il Kli è il soggetto del nostro studio e non di più. Noi non parliamo di moralità o di qualsiasi religione, solo luce e Kli. Luce, Kli e Masach tra loro. Luce con qualità dare e Kli con la qualità ricevere desiderio. Questo è tutto. Ciò che c'è nonostante tutti i tipi di varietà, ma non di più, solo dare e ricevere. È una maniera di ricevere che dà il Masach. Lo schermo. Questo è tutto. In un certo senso è così facile, così semplice. Questo è il soggetto del nostro studio. Tutte le varietà tra il dare e l'infinito. Ecli il desiderio. Questo è il nostro studio. Da Ein Sof fino a Kli, al Kli. Il ricevente fino al mondo Asya. Noi non tocchiamo il nostro mondo. Il nostro mondo non ha il nostro interesse. Il mondo fisico. Ovviamente facciamo paragoni con il nostro mondo, ma non parliamo circa il nostro mondo. Noi abbiamo solo bisogno di portarci in conformità con lo spazio tra Ein Sof e il Kli. Questo è il mondo spirituale di cui stiamo parlando nel nostro studio. E mentre stiamo studiando, ci stiamo portando in conformità con questi mondi spirituali e tutti i buchi che abbiamo fatto attraverso le nostre domande. La luce può entrare e noi possiamo sperimentare l'infinito. Certo che tu non capisci una parola. Forse le parole sono abbaglianti davanti ai tuoi occhi. Non importa. Vai oltre e prendi quel che puoi. Quando pensi questo è troppo difficile per me, sappi che non hai il clì giusto. Non lo hai ancora. Per ora basta sapere questo. Dare e ricevere luce e clì è tra luce e il Kli, hai Masach, forza di volontà di volontà. Considerando l'uomo il Kli, vediamo il Masach, la forza di volontà, e considerando la luce, è chiamato mondi spirituali. Mondo spirituale o Masach è lo stesso. I mondi sono grossolani nati dal Masach perché il Masach produce il grossolano. C'è il sistema di filtraggio. Ci sono filtri nei mondi fatti dal creatore. E ci sono filtri dentro l'uomo fatte dall'uomo. Noi studiamo i filtri del mondo. Ma in un certo senso sono uguali. Noi facciamo quel che dobbiamo fare, lavorare su noi stessi fino a quando veniamo al mondo azzurro. In questo mondo, Azilu, il primo uomo era stato creato e quando veniamo a questo mondo sarà meno sottile. È da dire che non lo sentiremo più sottile. Ovviamente il mondo è sottile e questa sottilezza è molto importante, ma passo dopo passo noi impareremo molto di più su di esso, sentiamo di più esso fino a che noi sentiamo e stiamo nella sottilezza. Ma non ora. Ora non possiamo comprendere.